Sura 46esima. Alah Kaf. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Ha-Mim. La rivelazione del libro proviene da Allah, l'Eccelso, il Saggio. Non creammo i cieli e la terra e quel che vi è fra mezzo, se non con verità e fino ad un termine stabilito. Ma i miscredenti non badano a ciò di cui sono stati avvertiti. Di: guardate coloro che invocate all'infuori di Allah. Mostratemi quel che hanno creato della terra. Oppure è nei cieli che sono associati ad Allah. Se siete sinceri, portate una scrittura anteriore a questa, o una traccia di scienza. E chi è più sviato di colui che invoca all'infuori di Allah, chi non saprà rispondergli fino al giorno della resurrezione? Essi non hanno neppure coscienza dell'invocazione che viene loro rivolta. E quando gli uomini saranno riuniti, saranno loro nemici e rinnegheranno la loro adorazione. Quando vengono recitati loro i nostri versetti espliciti, i miscredenti dicono della verità che viene ad essi: è magia evidente. Oppure dicono: l'ha inventato lui. Di: se l'avessi inventato io, non potreste fare nulla per me contro la punizione di Allah. Egli ben conosce quello che propalate ed è testimone sufficiente tra me e voi. Egli è il perdonatore, il misericordioso. Di: non costituisco un'innovazione rispetto agli inviati, né conosco quel che avverrà a me e a voi. Non faccio che seguire quello che mi è stato rivelato. Non sono che un ammonitore esplicito. Di: ma non vedete? Se esso viene da Allah e voi non credete in esso, mentre un testimone dei figli di Israele conferma la sua conformità e crede, mentre voi lo rifiutate per orgoglio? In verità Allah non guida gli ingiusti. I miscredenti dicono ai credenti: se esso fosse un bene, costoro non ci avrebbero preceduto. Siccome non sono affatto guidati, diranno: questa non è che una vecchia menzogna. Prima di esso c'era la scrittura di Mosè, guida e misericordia. Questo libro ne è la conferma, in lingua araba, per ammonire gli ingiusti ed essere lieta novella per coloro che fanno il bene. Sì, coloro che dicono: il nostro Signore è Allah, e agiscono rettamente, non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. Essi saranno i compagni del giardino, in cui rimarranno in perpetuo, compenso per quello che avranno fatto. Abbiamo ordinato all'uomo la bontà verso i genitori. Sua madre lo ha portato con fatica e con fatica lo ha partorito. Gravidanza e svezzamento durano 30 mesi. Quando raggiunge la maturità ed è giunta ai 40 anni, dice: Signore, dammi modo di renderti grazia del favore di cui hai colmato me e i miei genitori, affinché compia il bene di cui ti compiaci, e concedimi una discendenza onesta. Io mi volgo pentito a te, e sono uno dei sottomessi. Accetteremo le loro azioni più belle, e sorvoleremo sui loro misfatti. Saranno tra i compagni del giardino. Promessa veritiera fatta a loro. Quanto invece a colui che dice ai suoi genitori: uff, a voi! Vorreste promettermi che sarò fatto risorgere quando già passarono molte generazioni prima di me? Essi invocheranno l'ausilio di Allah dicendo: guai a te! Credi che la promessa di Allah è veritiera? Risponderà: sono le favole degli antichi. Essi sono coloro contro i quali si realizza la sentenza, come si realizzò fra le comunità di uomini e di demoni che li precedettero. In verità saranno i perdenti. Ci saranno gradi di merito per ciascuno di loro in base a quello che avranno fatto. Allah li compenserà pienamente delle loro opere e non subiranno alcun torto. Nel giorno in cui i miscredenti saranno condotti al fuoco, sarà detto loro: avete dissipato i vostri beni nella vita terrena e ne avete goduto. Oggi siete compensati con un castigo avvilente per l'orgoglio che senza alcun diritto manifestavate sulla terra e per la vostra perversione. E ricorda al fratello degli Ad, quando ammonì il suo popolo presso Al-Ahqaf. Vennero prima di lui e dopo di lui gli ammonitori. Disse: «Non adorate altri che Allah. Temo per voi il castigo di un giorno terribile». Dissero: «Sei venuto per allontanarci dai nostri dei? Fa venire ciò di cui ci minacci, se sei sincero». Disse: «La scienza è solo presso Allah. Io vi comunico ciò con cui sono stato inviato, ma vedo che siete gente ignorante». Quando videro una densa nuvola dirigersi verso le loro valli, dissero: «Ecco una nuvola, sta per piovere». «No, è proprio quello che cercavate di affrettare. È un vento che porta seco un doloroso castigo, che tutto distruggerà per ordine del suo Signore». Al mattino non erano visibili che i resti delle loro case. Così compensiamo i malvagi. Avevamo dato loro mezzi che a voi non abbiamo dato. Avevamo donato loro l'udito, gli occhi e i cuori. Ma il loro udito, i loro occhi e i loro cuori non giovarono loro, perché negavano i segni di Allah. Li avvolse ciò di cui si burlavano. Già annientammo le città attorno a voi, eppure avevamo mostrato loro i nostri segni affinché ritornassero a noi pentiti. Perché mai non li soccorsero coloro che si erano presi come intermediari e dei all'infuori di Allah? Anzi, li abbandonarono. Non erano altro che calunnie e menzogne. E ricorda quando ti conducemmo una schiera di demoni affinché ascoltassero il Corano. Si presentarono dicendosi: «Ascoltate in silenzio». Quando poi la lettura fu conclusa, fecero ritorno al loro popolo per avvertirlo. Dissero: «O popolo nostro, in verità abbiamo sentito la recitazione di un libro rivelato dopo quello di Mosè, a conferma di quello che lo precede. Guida alla verità e alla retta via». «O popolo nostro, rispondete all'araldo di Allah e credete in Lui, affinché Egli vi perdoni una parte dei vostri peccati e vi preservi dal doloroso castigo». Quanto a colui che non risponde all'araldo di Allah, non potrà diminuire la sua potenza sulla terra e non avrà patroni all'infuori di Lui. Costoro sono in manifesto errore. Non vedono che Allah ha creato i cieli e la terra, che non si è stancato della loro creazione ed è capace di ridare la vita ai morti? Sì, in verità Egli è l'Onnipotente. E il giorno in cui i miscredenti saranno condotti al fuoco, verrà chiesto loro: «Non è questa la verità?» Diranno: «Sì, per il nostro Signore». Dirà Allah: «Gustate allora il castigo della vostra miscredenza». Sopporta con pazienza, come sopportarono i messaggeri risoluti. Non cercare di affrettare alcunché per loro. Il giorno in cui vedranno quel che è stato promesso loro, sarà come se fossero rimasti solo un'ora del giorno. Questo è solo un annuncio. Chi altri sarà annientato, se non i perversi?